quella fabbrica dove i lavoratori, dopo i licenziamenti di massa, dopo la chiusura della fabbrica stessa da parte della proprietà, hanno deciso di rioccupare e di riattivare in maniera completamente autogestita la produzione. Mandiamo una traccia musicale e poi partiamo parlando di Montebaoi. Comme Marcos, la rage une cassose, prête à lâcher le mic s'il faut mourir pour la cause. J'rappe la force, j'rappe l'espoir, j'rappe la fratrie. Issue d'une génération endormie par la matrice, enfant de l'insomnie, bordé par le macadam, percé par le vague à l'âme. Appelle-moi camarade, cause d'un monde bien malade où tout le monde s'en bat la rage. Braque les haut-parleurs avec des rimes dans lesquelles parle la rage. Anti-norme, impossible à encarter, autonome comme les anarachrans, comme les frères de quartier. C'est l'heure de s'unir car l'urgence nous rattrape. Dans le meilleur ou dans le pire, on est ensemble, camarades. Combattant, résistant, militant, indomptable, insurgé, insoumis, rebelle, infatigable, esprit libre, vagabond, nomade. Si tu penses que le monde est crade, appelle-moi camarade. Combattant, résistant, militant, indomptable, insurgé, insoumis, rebelle, infatigable, esprit libre, vagabond, nomade. Si tu penses que le monde est crade, appelle-moi camarade. E allora cominciamo a parlare di queste due esperienze che, come accennava Nicolas prima, nonostante appunto la distanza geografica, sono accomunate dalla solita ricetta per gestire la crisi, ovvero sia quella che prevede la privatizzazione dei profitti e la socializzazione dei costi, e da, diciamo così, l'idea dei soliti imprenditori, banchieri, che vorrebbero sempre cadere in piedi sfruttando la crisi per giocare, diciamo, sulla pelle di lavoratori e lavoratrici e ricattarli con l'obiettivo appunto di abbassare i salari e massimizzare i profitti. Introduciamo un po', vi riproponiamo quella che è la storia appunto della Montebovi, l'azienda dolciaria di Lanuvio, che per un presunto stato di crisi a ottobre del 2012 comunica con una lettera le ferie forzate a 21 lavoratori. Nello stesso momento, diciamo così, si delinea la vendita da Montebovi S.p.A. a Dolciaria S.r.l. E nonostante l'aumento appunto della produzione nel mese di agosto, i lavoratori della Montebovi da ottobre rimangono senza stipendio. Il 15 ottobre parte il primo sciopero a cui partecipano la totalità dei lavoratori e lavoratrici, e dopo tre giorni, diciamo, le parti sociali chiedono un incontro con i legali dell'azienda appunto con l'obiettivo di porre fine alla fine, diciamo, alle ferie forzate e l'istituzione della cassa integrazione. La proposta non viene presa minimamente in considerazione dall'azienda, e non solo, tre operai appartenenti alla RSU vengono, diciamo, licenziati. Nel mese di marzo, appunto, il Tribunale di Velletri riconosce la condotta antisindacale dell'azienda, e questa, diciamo, è una delle circa 70 irregolarità che riguardano appunto la gestione della dolciaria SRL, ora Montebovi. À Kingston, résister à Pinochet au Chili, rencontrer les bouchers de Washington, taper la misère dans un doua qui voit sa terre trembler sous un faux barrage, et je ne sais quoi sous prétexte qu'Allahu Akbar font sentir le froid dans le dos à Islamabad. J'aurais pu voir le jour au Tibet libre, ou mourir de faim au Bangladesh, être profidèle dans les Caraïbes, enfin des rues de Bagdad ou de Marrakech. Pendant que la corne de l'Afrique flambe, étudiant sur la place tienne. Diciamo che oltre appunto ai licenziamenti, la non volontà assoluta dell'azienda di aprire un tavolo di trattativa, l'arroganza padronale viene evidenziata anche dalla totale, dal totale menefreghismo dell'imprenditore Coscioni e dall'uso, ricordiamo il ruolo che in questa vicenda hanno assunto i vigilanti privati, insomma da cani da guardia del nuovo AD dell'azienda. Diciamo che, vabbè, per stringere un po' su questa cosa della Montebovi, l'ipotesi che sembra più plausibile è che la mala gestione dell'azienda non sia altro che una copertura per, diciamo così, ammortizzare i debiti dell'azienda per buona pace, insomma, dei lavoratori. A metà marzo viene, diciamo così, convocato l'ennesimo presidio organizzato dai lavoratori davanti alla fabbrica, finalizzato ancora una volta a chiedere un tavolo di confronto con l'azienda, e in questa occasione, diciamo così, il presidio viene represso da polizia e carabinieri, che ancora una volta, diciamo così, invece di perseguire chi viola le leggi sul lavoro, manganella lavoratori e li denuncia, andando, diciamo così, a mettere un carico ancora più pesante a quello che è appunto una situazione di crisi lavorativa, personale, insomma, dei lavoratori Montebovi in questo caso. Diciamo che questa della Montebovi è solo una delle tante storie in continuo aumento che delineano appunto come si fa sempre più aggressivo il saccheggio e la devastazione sulle nostre vite, sul nostro futuro. E diciamo così, come non è più accettabile, come bisogna, diciamo, porre un freno immediato a questa situazione. E diciamo, la seconda, una risposta concreta appunto alle varie crisi aziendali viene da Trezzano sul Naviglio. Chemin clôturé, le livre de ma vie déjà plein de chapitres. On m'a volé des parties car ici bas, partiel et l'arbitre, j'aurais dû crever à chaque virage. Tous 1 degré 618, boum, dans la tête la vie est un mirage. Nous on perd, on gagne, on tombe et on se relève. On grandit entre l'envie de s'en sortir et celle de zigouiller leur règne. Rien n'est facile, trop de haine dans l'inconscient collectif. T'étonne pas si c'est le bordel que mes collègues kiffent. Secouer l'ordre établi pour oublier nos peines. On coupe la mélancolie à l'adrénaline, tenir le cap malgré l'état de crise. Certains finissent épave triste quand la vie ressemble un pavé qui s'éclate sur ton pare-brise, on part brisé. Mais trop sont restés à terre, on baissait la tête. Tu te demandes pourquoi on est contestataire. Qu'on a cru en vos valeurs et puis qu'on est tombé de haut. Vu que les plus tristes de nos malheurs vous touchent moins que vos billets d'euros. Parce que notre sourire est tombé comme nos frères un par un. Parce qu'on crie à l'aide et que personne ne fera rien. Parce qu'on n'est pas né avec la haine, livré à soi-même. Parce que l'État est sourd et qu'il nous enferme quand on fait la même. Parce que le vase déborde et parce qu'on boit la tasse. Parce qu'on est triste et qu'on crève en silence derrière nos carapaces. Route longue et tortueuse, au bord du risque et torturée. Souvent en pente, faite de hors piste. Tout chemin clôturé sur leur banquise. Nous on subit les nouvelles grêles, on nous appelle mauvaises graines. Wesh, en bref, la jeunesse crève dans l'indifférence totale à 200 sur les dos d'âne. Malgré le mur qui nous attend, car pour freiner, je crois que c'est trop tard. Babylonia, que les puissants qui le vendent pendant qu'on crève de cette douleur navrante qui donne envie de s'ouvrir le ventre. Donc on s'anesthésie tout seul, la défense nous apaise. Bien sûr qu'on aimerait s'élever, mais votre monde nous rabaisse. Bienvenue au cœur du malaise, créé par votre manège glacé. La paix est morte, son cadavre trouvé sous la neige. Et appunto, una concreta risposta a quelle che sono i licenziamenti, le chiusure delle fabbriche, ce la facciamo raccontare da Massimo della ormai Rimaflo di Trezzano sul Naviglio, che attraverso un progetto di ripresa produttiva senza padroni fondato sull'autogestione stanno appunto lanciando una sfida importante a come appunto diciamo, costruire una risposta differente alle solite ricette che ci vogliono propinare su appunto su come gestire questa crisi economica. Depuis des siècles, pour nous et au nom des morts. Soldats précoces, on prend des bosses depuis qu'on est gosses. Dévalorisés car ils aiment bien juger la sève à l'écorce, écorché vif. Trop de fois et enfants du brasier. N'oublie pas que le présent n'est que le résultat du passé. Voudrait nous rendre amnésiques, le mensonge nous catapulte. C'est quoi qui nous catalogue, de petits énervés incultes. Crois-tu comprendre le monde juste en matant le 20h ou connaître l'histoire en ayant lu que l'angle des vainqueurs. Nous on a cru en vos valeurs. Un altro po' di musica e poi tenteremo di collegarci, collegheremo telefonicamente con Massimo, un lavoratore della Rima Flow, quindi di questa fabbrica in provincia di Milano, dove appunto i lavoratori da alcuni mesi autogestiscono la produzione. Mandiamo ancora un po' di musica e ci risentiamo tra poco con questa corrispondenza. Vos yeux, ma jeunesse crève, en silence, vos yeux, ma jeunesse crève. En silence, sous vos yeux, ma jeunesse crève. En silence. J'ai un flingue comme corps vocal, pousse les focales, mélange rage et vodka, putain de braquage vocal. C'est terrible, horrible, l'ambiance est horrible. C'est juste la vérité que tu lis à travers nos rimes. Et qui me nourrit, c'est sûrement pas rap. Moi je suis là, j'attends le jour où ça se passera. Je veux un pied dans l'arène avant que Chétan m'arrête. Et si la qui nous cherche, nous on la fracassera. Faut vivre sa vie, demande à Kenny. Faut pas faire sa fuite, mais le monde est pénible. Tu veux prendre ma part, mais c'est trop tard, gars. Moi j'ai mon équipe, Baraka et Kargan. C'est ma zik, mon son, ma street, mon songe. Mais mon but c'est de faire carnage. Je dois faire mes projets, ça rien me reprocher. Je vais m'accrocher, Hakala, je vais m'y approcher. Tout mon bloc et nos couses, les votes qui m'écoutent. Cette époque me dégoûte, j'ai des potes sous écrou. Et puis d'autres qui se shootent. Sniff la coque et s'écroule, mise à mort, triste hardcore, je découvre. La vie te boxe et te goom, te frappe fort puis te prouve que c'est dur, trop de choses qui t'éprouvent. Ton crew avec un groove venu d'ailleurs. Des rimes en guise de basso, c'est une bouche, fusil mitrailleur. Dans ton drame, tout le monde se tait, pourtant tout le monde les voit. Puis on nous dit qu'on guérit pas les plaies en les léchant avec une langue de bois. Et les flics fêlés te respectent plus. On s'étonne que dans les cités tous les poulets ils laissent des plumes. On a préparé nos faces bâtards pour un gros casse A4 loin des tocards bavards. C'est un vocal braquage mais on ne périra pas là. C'est L-O-R-E-D-K Belek Kenny Arcana. Braquage vocal. On braque et traque le bise à l'occasion. Travaille notre art entre rap et vide à l'occasion. Soldat au mic, levez les poings en l'air. En sortant du maquis, tu sais pour qui on part en guerre. Seule la rage nous calme, ici c'est marche ou calme. Respecte mon son, c'est cache, le braquage vocal. Viens, je t'invite, là où les hommes couverts. Là où tous les calibres n'accompagnent jamais une bonne nouvelle. Le poing en l'air, là où même l'air sans rêve, ressent l'air de révolte, résigné, même pas en rêve. C'est mort, le système et ses normes. Guette son armement, attend le bombardement, dégarnement. Plus rien ne calme, non, positionné en ennemi. Par leur règne de merde, nous piétiner. Est devenu leur règle première, spirituellement insurgé. Notre âge est ciblé, la rébellion me disait que la lucha sigue. Nos espoirs, nos rêves, ils nous ont tout pris. Entends l'écho des cris de ceux qu'on oublie. Marginal et fier de l'être sans tomber dans le panneau. MC sans étiquette, là où beaucoup trop jouent les collabos. Je veux faire bouger les choses avant que je parte à mon échelle. Et quand je prends le mic, c'est en sœur que je te parle. Y'a pas de star, chez nous, non, y'a pas de ça. Chez nous, on vole pas la place, les étoiles, c'est pour les nôtres et c'est tout. Au déboire de la cause, quand je retranscris les mémoires de l'atroce. T'es du côté du canon et moi de la crosse. Moi je viens et je punis ta clique dans un pugilatrime. Je laisse surprise ta team, presque dubitatif, stress. D'artiste, reste puriste, ta vie et blesse les cubits partis. Check les turistes, ma fille. Ratisse le blé parce qu'on germe sur la paille. S'il y a du charter au menu, c'est parce qu'on gêne sur la carte. Les ressons sans retenue, mais c'est pour les pouces. Un pour les couses, ne lève pas le doigt, mais se tourne les pouces. Si je me fous que ma tête horrifie. J'avalerai les puissants lits par la racine sous ma terre d'origine. J'ai fait mes lettres de noblesse dans le temps GPS. Les MC pour me suivre, ont tous besoin d'un GPS. Je cache mes faiblesses. Les MC font la courte échelle pour que la concurrence se défaite. Braquage vocal, braque et traque le bise à l'occasion. Travaille notre art entre rap et vide à l'occasion. soldats au mic, levez les poings en l'air. En sortant du maquis, tu sais pour qui on part en guerre. Seule la rage nous calme, ici c'est marche ou calme. Respecte mon son, c'est cache le braquage vocal. Viens, je t'invite là où les hommes couverts, là où tous les calibres n'accompagnent jamais une bonne nouvelle. Allora, stiamo provando a fare questa chiamata. Pronto? Sì, pronto, ci senti? Pronto, mi senti? Sì, noi ti sentiamo bene, tu? Ti sento. Perfetto. Mi senti? Sì, sì, ti sentiamo, ti sentiamo. Mi senti? Sì, ti sento, ciao. Ciao, ciao, grazie. Allora, perfetto, siamo... anch'io benissimo. Perfetto, bene. Allora, quindi abbiamo introdotto in realtà poco la questione della rima flow, perché appunto pensavamo che fosse meglio che ce la raccontassi direttamente tu, questa esperienza che da alcuni mesi portate avanti voi lavoratori, ex lavoratori, ex lavoratrici della Maflow, che appunto avete chiamato Rima Flow. Allora, che cos'è, quando è nata e perché, diciamo, quali sono le prospettive? Che appunto avete chiamato Rima Flow. Sento il ritorno. Allora, praticamente noi, la nostra crisi è iniziata nel 2009, quando la Maflow è andata in default, non riusciva a pagare le... Ti sentiamo, ti sentiamo. Non riusciva a... mi senti? Perché sento il ritorno. Ecco. Non riusciva a pagare i debiti e quindi è andata in amministrazione straordinaria. E qui è iniziata la prima occupazione. In pratica abbiamo occupato la fabbrica. Scusa. Sì, ti sentiamo, noi ti sentiamo. Non sto parlando, così evitiamo il ritorno, solo per quello. Comunque ti sentiamo bene. Faccio fatica a parlare perché col ritorno mi dà fastidio. Ma cioè, senti tanto ritorno te? Ecco, sì. Ok, perché in radio si sente benissimo, anche da, diciamo, dallo streaming si sente bene. Forse dovrei... Non so se ci stai sentendo, dovresti abbassare il volume. E abbiamo fatto una vertenza lunghissima, abbiamo protestato contro i commissari che rappresentavano il governo, poi contro la BMW che aveva tolto tutte le commesse produttive e l'aveva trasferita in Germania, e dopo un anno di occupazione, siamo andati sui tetti, la vertenza si è conclusa nel 2010 con la vendita del gruppo Maflow e dello stabilimento di Trezzano al gruppo polacco Borishev, il quale però ha colpato soltanto 80 lavoratori di Trezzano su 330, il resto sono rimasti fuori. I lavoratori che sono rimasti fuori erano garantiti più o meno dall'accordo sindacale, che prevedeva che con il ritorno della BMW e con il ritorno di altre commesse sarebbero rientrati. In realtà poi cosa è successo nei due anni successivi? L'imprenditore polacco non ha rispettato gli accordi, la BMW è ritornata a dare gli ordini alla Maflow, ma il polacco ha spostato tutti gli ordini produttivi in Polonia. Quindi un gruppetto della Maflow S.P.A., della prima Maflow, ha iniziato, si è messo avanti i cancelli, e dopodiché alla fine abbiamo occupato i capannoni della ex Maflow. Abbiamo fatto un comitato, Occupy Maflow. Questo comitato gestisce un pochetto tutta l'area. E all'interno di questo comitato abbiamo aperto una cooperativa, Rimaflow, e ci occupiamo, almeno vorremmo occuparci, del recupero di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Ma nel frattempo che otterremo tutte le autorizzazioni, avremo insomma del lavoro, abbiamo praticamente... per adesso stiamo... Come dire, abbiamo ospitato i rifugiati politici che sono stati praticamente abbandonati dallo Stato, stiamo stringendo accordi con dei gas, con dei produttori agricoli locali per fare un gas all'interno di questi stabilimenti, e vorremmo fare assieme a un'altra associazione una falegnameria vorremmo aprire, quindi vorremmo fare una serie di attività. In modo che nei prossimi 3-4 anni, oltre alla cooperativa, dovremmo essere dovrebbero avere interessi economici all'interno di questo stabilimento 300-400 lavoratori. Magari Massimo, ci racconti un po' questo nuovo modello lavorativo, insomma, che voi avete pensato, che appunto non ricalca la forma cooperativistica che, insomma, che noi conosciamo. Possibilità, ma chi non ne ha di possibilità, Massimo? Lavoratori in generale, e anche ridare una risposta politica con un nuovo tipo di economia. Noi abbiamo iniziato questa attività senza soldi e piano piano ci stiamo organizzando, anche occupando questo capannone, la forma di finanziamento, e stiamo aprendo diverse attività. Quindi noi pensiamo che possiamo fare la politica vera sul campo. Quindi diciamo così, attraverso... La politica vera sul campo. Cioè praticamente lavorando e anche chiedendo una nuova forma di finanza, perché secondo noi non vanno aiutate oppure finanziate quelle esperienze fallimentari, quelle sono le banche, gli studi di credito, ma vanno aiutate proprio le realtà come la nostra, che partono da zero, che siamo i penultimi che aiutano gli ultimi nel caso dei rifugiati, e quindi chiediamo che insomma questa nuova finanza, ecco. Una cosa, diciamo, veniva il risalto, diciamo, spesso sentiamo, mi viene in mente il caso dell'Ilva, no? Dove spesso viene contrapposta quella che è la tutela ambientale e la tutela invece del lavoro. Voi invece, diciamo così, avete deciso di basare, insomma, la vostra attività anche sulla riconversione ecologica della vostra fabbrica. Insomma, anche questo aspetto vorremmo, insomma, un po' approfondire, se ci dici qualcosa in più. Sì, ho sentito. Okay. Sì, la nostra, come dire, la nostra intro è quella del recupero, diciamo, dell'ecologia, insomma. Noi vogliamo riconvertire la nostra attività, vogliamo dare una mano a noi stessi, ma anche al pianeta, col fatto delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. È il nostro primo impegno. Il fatto che aprire un gas, quindi avere rapporti con i produttori locali che fanno un tipo di produzione non intensiva, è un'altra risposta, insomma, a quello che è, diciamo, lo sfruttamento sul territorio. Anche occupare il capannone stesso è questa risposta ecologista, perché altrimenti questo capannone sarebbe stato abbandonato alle sterpaglie, all'abbandono totale, e noi abbiamo detto facciamolo funzionare questo, gli operai sono a casa che non fanno nulla, utilizziamo quest'area per renderla più utile, insomma. Senti, un'altra domanda ti volevo fare. Diciamo, gli interessi rispetto a questa cosa sono tanti. La Maflor era una multinazionale, adesso c'è questa proprietà polacca, adesso non mi ricordo il nome, che ci hai detto. Quindi interessi fortissimi. I capannoni, se non sbaglio, appartengono ad una banca, all'Unicredit, se non vado errato. E ti volevo chiedere quello, e quindi che ruolo ha la banca in tutto questo, che, diciamo, che pressioni fa su di voi, sugli occupanti, sì, sui lavoratori che hanno occupato. E poi un'altra cosa, così magari leghiamo i due argomenti. Tu parlavi appunto di apertura di questa nuova cooperativa di Occupy Maflow, della Rimaflow, verso l'esterno, e quindi anche per ottenere supporto in qualche modo dalla comunità che abita quel territorio. Un mese fa più o meno avete ospitato un'iniziativa che era quella per l'assemblea di la seconda assemblea di per una nuova finanza pubblica. Quindi ti chiedo, partendo appunto dal racconto del ruolo dell'Unicredit, che cosa c'entra il discorso di rivolta al debito, del debito, di una nuova finanza pubblica rispetto alla vostra occupazione, alla vostra proposta, a quello che state appunto facendo lì. Tra l'altro proprio oggi e domani c'è la terza assemblea a Firenze di una nuova finanza pubblica. Quindi ecco, queste sono un po' le domande. Grazie. Allora, il discorso di Unicredit, hanno comprato quest'area con un'operazione speculativa fatta nel 2007 tra la vecchia Maflo e l'Unicredit. Oggi l'Unicredit l'immobile appartengono a una scatola cinese dell'Unicredit che si chiama Virum. Nel frattempo la Virum in questa fase non ha ritirato le chiavi dalla Maflo, quindi nel frattempo che c'è un contenzioso tra la Maflo polacca e l'Unicredit, che litigano insomma su chi deve pagare l'affitto, su chi è il conduttore dell'area, noi ci siamo infilati e nessuno ci sta contrastando, quindi siamo abbastanza tranquilli in questa fase. Stiamo facendo abbiamo ospitato l'assemblea sulla nuova finanza pubblica e oggi partecipiamo a Firenze su questa questione, perché a noi interessa la nuova finanza pubblica, proprio perché lo dicevo prima. Riteniamo che i soldi pubblici devono essere destinate a esperienze tipo la nostra, nel senso aiutare i lavoratori a costruirsi un futuro, anziché aiutare come è stato fatto nel 2008, che le banche praticamente erano fallite e lo Stato praticamente li ha aiutati, come è successo adesso con il mondo dei Paschi di Siena. Quindi noi riteniamo che sono le realtà dei lavoratori, le realtà che hanno un tipo di mentalità sostenibile sul territorio, che devono essere finanziati da una nuova finanza pubblica. Massimo, ma diciamo il vostro insomma è diciamo un esperimento innovativo, è stato molto interessante, insomma diciamo così, è anche insomma sentirvi parlare insomma viene anche un po' il fomento, nel senso appunto state dando una risposta concreta, ma quello che volevamo sapere è se diciamo così state stringendo anche relazioni con altre aziende in difficoltà del territorio, o insomma mi viene in mente la nuova scelta di Magenta, insomma mi senti? Sì, ti sento. Okay. Noi abbiamo sempre fatto questo, nel senso abbiamo sempre cercato di unificare le realtà in lotta. Oggi all'interno di Rimafro ci sono dei lavoratori della nuova città di Magenta, a 5 km da noi c'è un'altra azienda in crisi che è la Safosa, che proprio in questi giorni stanno discutendo se bisogna venderla o meno, e poi abbiamo rapporti con la Jabil, ma già anche nel 2009 noi avevamo costituito un coordinamento assieme alla Nova Ceta, c'era la Mangianotti Nuclear, l'Agile Otelia, abbiamo sempre cercato di unificare le lotte. E all'interno della Maplo oggi ci stiamo incontrando di diversi lavoratori, diverse realtà. Ok, perfetto, grazie di questa importantissima testimonianza, Massimo. Noi adesso continueremo a parlare anche un po' di diciamo, voi avete anche ospitato un mese fa appunto durante quella assemblea della nuova finanza pubblica, se non sbaglio, un lavoratore argentino di una delle tante fabbriche recuperate in quel paese, quindi diciamo un movimento, quello in Argentina, che in qualche modo è stato una delle più importanti risposte a quella crisi del 2001, è stato proprio quello. In Argentina ci sono, se non sbaglio, 200 più fabbriche occupate, quindi continueremo a parlare un po' anche di questo e vedere insomma a capire che cosa è successo in Argentina più di 10 anni fa, e poi per appunto sottolineare come diciamo il modello che voi state perseguendo sia stato già portato avanti con più o meno successo in altri paesi, dall'Argentina al Venezuela e adesso anche in Grecia. Quindi possiamo che ringraziarti, ringraziare tutti i lavoratori della Rima Flow, e niente, noi alcuni di noi domani saranno proprio a Firenze all'assemblea di una nuova finanza pubblica, quindi magari con alcuni di voi ci potremmo incontrare lì, insomma. Ok, grazie a voi, buona giornata. Ciao Massimo, grazie mille, ciao. Putain, j'ai besoin d'un docteur là. Tiens, j'arrive dans un hôpital, la personne n'a pas. Bottiglie Molotov, ce l'ho, ce l'ho. Ce li vedo e non mi mancano. Però ci non mi arrenderò, non mi arrenderò. Le armi non le consegno, no. Questa è una lotta senza resa. Venite a prenderci se mai. Se siamo pronti alla difesa, non ci sconfiggerete mai. Mobilitati da tutta Europa, mi viene la pelle d'oca, vivo la vita loca. C'ho la voce roca, a forza di rappare uso il mio arsenale, mentre la repressione gioca le sue facce da maiale. Mobilitati sempre e chi va a dormire, c'ho la barba lunga, gli occhi piste 100 mire. Che colpisce uno, colpisce tutti quanti, nessuna lotta è decisiva, tutte importanti. Ma tu vuoi il nostro posto e non venirmi addosso. Io vedo rosso e lo difendo come posso. Tu vuoi il nostro posto e cosa ci vuoi fare? Tra tutte le destinazioni è la tua che è criminale. E tra tutti gli stranieri chi è il più straniero? Il lanciero pistolero, lo sceriffo nero. Meglio imparare subito, dare segnali in pubblico, essere chiari perché questo non lo dubito. Bottiglie Molotov ce l'ho, ce l'ho. Se le nuove non mi mancano, però ci non mi arrenderò, non mi arrenderò. Le armi non le consegno, no. Questa è una lotta senza resa. Venite a prenderci se mai. Noi siamo pronti alla difesa. Non ci sconfiggerete mai. Mezza Italia sta così. Difende il territorio, da Turbo Gas, gli F-16, un nuovo traforo, dalla servitù nucleare, militare, dal voodoo commerciale. Ehi, cosa dobbiamo fare? E noi siamo qui, per il nostro territorio, ognuno è di passaggio, ospite provvisorio. Il saccheggio degli spazi, è la vera violenza, c'è un'apertura ai nazi, è la loro monnezza. Ma c'è anche resistenza e noi la facciamo, state attenti perché ci riproduciamo. E siamo in tanti e differenti, ma tu vuoi il nostro posto, non mogli e mostri i denti. Puoi sgomberarci, ci fa un clima ostile, ma ci sono molte altre sacche a noi vicine. E sono decisive, ognuno ha il proprio stile. Voi come pensate di colpire? Noi andiamo crescendo, andiamo sempre meglio. Questo mondo di mille mondi è sveglio. Noi andiamo crescendo e questo non ti piace, ma vedrai che ci daranno il Nobel per la pace. Altro che Al Gore, quel piacere niente, non è una chiara percezione del presente. Tutti a Stoccolma a ritirare il premio, dietro ogni no si nasconde un genio. Bottiglie Molotov ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho. Le nuove non mi mancano, mancano. Però ci non mi arrenderò, non mi arrenderò. Le armi non le consegno, no. Questa è una lotta senza resa, senza resa. Venite a prenderci se mai. Noi siamo pronti alla difesa. Non ci sconfiggerete mai, mai, mai. More, more, more fire. More, more, more fire. More, more, more fire. More, more, more fire. Bottiglie Molotov ce l'ho, ce l'ho. Scrive nuove non mi mancano, mancano. Però ci non mi arrenderò, non mi arrenderò. Le armi non le consegno, no. Questa è una lotta senza resa, senza resa. Venite a prenderci se mai. Noi siamo pronti alla difesa. Non ci sconfiggerete mai, mai, mai. Siècle 21, monde à la presse, on est libre. Madame, pensée unique, un monopole est venu lier la parole. Et sacré à l'heure où les murs se resserrent. Clac, clac, regarde le monde au lieu de regarder tes recettes. Au royaume des aveugles, si les borgnes sont rois, aux commandes des majors, les sourds pour la loi. Usine à top, usine à top. Fabrique de chanteurs, Kleenex, de préato pour réussir. Même une partout dans l'hémicycle. Ça crame trop dans le showbiz et son ombre abominable trop. Laissez leur conscience à la porte de l'anonymat. À tous ceux de responsabiliser, à frapper en plein cœur. Nous, nos mots sont patriotique, mais tu peux compter sur nous pour exploser la vitrine. Les miens font de la musique sans faire de compromis, avec l'instinct de survie pour seule adrénaline. Derrière les mots d'urgence il y a une cause, sur les barbelés du sang une cause. On est juste des messagers de notre temps, avec un cœur, des idées pour porter une cause. Si je suis utile, plaide-moi ta cause, dans une chanson qui sert à autre chose. Pour les sans voix, on ouvre les haut-parleurs, comme un hymne à faire pour porter la cause. On espère gommer les couleuvres avec des plans de carrière. Combien on salit cette passion qui nous brûle de l'intérieur. Combien ont perdu leur âme en sacrifiant l'écriture. Combien pensent que le talent c'est comme une belle signature. Combien ont les yeux qui brillent en évoquant l'assassin. Combien ont la trouille au cul en voyant chuter les barèmes. Et les grandes gueules hier prêtes à tous les compromis reviennent serrer des poignes dans les coulisses du service public. C'est le chant des insoumis, c'est leur choisir son camp. Yeah. Tu compères, tu collabores, tu qu'aimes produit de ton temps. Monsieur l'artiste, les yeux coulés aux royalties. Prends conscience vite avant de te faire machoir par la matrice. Elle a maqué la musique, symphonie de Vivendi. Depuis que l'art préfère traîner dans les bulles VIP. Idéal, complice d'un système qui pervertit. Wesh l'artiste, es-tu là seulement pour divertir? Pourquoi prendre des risques, changer les règles du game? Pour beaucoup, la part du gain reste la notion suprême. Politique et showbiz ne font pas bon ménage. À l'heure du piratage, bien plus de sages que de sages. Derrière les mots, l'urgence, il y a une cause. Sur les barbelés du sang, une cause. On est juste des messagers de notre temps, avec un cœur, des idées pour porter une cause. Si je suis utile, prête-moi ta cause, dans une chanson qui sert à autre chose. Pour les sans voix, on ouvre les haut-parleurs, comme un hymne à faire pour porter la cause. Les gens d'en bas qui ont raqueté la parole au nom des nôtres, les gens qui en bas, c'est pour ceux qui comprennent et tous ceux qu'on n'entend pas, ceux qui en crèvent la même rengaine quand se resserre au rempart. On se rempaille, on s'en tape de vos pressions, de vos pesos, de vos pensifs et de votre pensée oppressante. On présente sur vos terres l'impression dans l'industrie. Voilà la rage venue des tripes et cracher sur manuscrit. Pourquoi prendre des risques, changer les règles du game? Pour beaucoup, la part du gain reste la notion suprême. Politique et showbiz ne font pas bon ménage. À l'heure du piratage, bien plus de sages que de sages. Derrière les mots, l'urgence, il y a une cause. Sur les barbelés du sang, une cause. On est juste des messagers de notre temps, avec un cœur, des idées pour porter une cause. Si je suis utile, prête-moi ta cause, dans une chanson qui sert à autre chose. Pour les sans-voix, on ouvre les haut-parleurs, comme un hymne. La paire pour porter la cause. Derrière les mots l'urgence il y a une cause. Sur les barbelés du sang une cause. Allora, adesso parliamo quindi di Argentina, facciamo un po' un riferimento anche a quello che è stato l'esperienza argentina delle fabbriche recuperate, molto breve, quindi introduciamo l'argomento con un gruppo argentino, loro sono Actitude Maria Marta e questa è Así está la cosa. Seul, même parmi les miens, seul dans cette terre qui m'étouffe comme les silences de mes chagrins, seul parce que mes pas arrivent de loin. Así está la cosa, partida, pervertida, la vida convertida, degustando la mierda que la misma mierda nos convida, vida decidida, haciéndole frente a esta penitencia, nuestra miseria humana ante nosotros con tanta evidencia. Se me anudó el corazón para poder sobrevivir, viviendo para salvar solo mi propio pellejo. No me pongas, no te pongas. Entenderlo es definitivo. No lo intentes ni te interpongas. Si hagas lo que hagas, en definitiva nada tiene sentido. Digo, si todo en nuestra vida ha sido decidido en este plan siniestro configurado para fines apocalípticos. Ser insensible es el requisito para nuestro exterminio en masa. Son tiempos en que los métodos de aniquilación no son los mismos. Ya no nos desaparecen, ahora lo hacemos nosotros mismos, dándonos pequeños espacios de expresión sin respuesta, volviéndonos una protesta que a nadie molesta. Como esta, como esa. Domesticados como leones de circo, neutralizados, paralizados. Pero ¿qué nos pasa? Que no nos despertamos, vamos. Al carajo, yo me rajo. En Argentina no hay trabajo. La dignidad humana va cayendo cada vez más bajo. No hay atajo. Y esto ya se derrumba. Y esto pende de un hilo. Ni siquiera notamos la diferencia entre estar muerto o vivo. Digo, sigo. Los señores no me dedico a cerrar el hocico. Pero tampoco vocifero los miedos que por ahí andan como roedores. Ellos no son los vencedores. Traigo mi tambor para que te incorpore. ¿A dónde están esos que dicen tener tantos cojones? Como un cuetazo lo muevo. Aquí molestando de nuevo. Patriotas, compatriotas, dando guerra al mundo entero con esmero. ayuda a ser parte de esta lucha que con nosotros aquí se renueva. Se me anudó el corazón para poder sobrevivir, viviendo para salvar solo mi propio pellejo. Me levanto ni me duermo. En esta pesadilla todos somos prisioneros, parteros dando a luz a nuestros temores más profundos, moribundos, dando tumbos, escondiendo la cabeza como el avestruz. Seguimos pasando de mano en mano esta nuestra propia cruz. Pura, supura, dura, de tanta podredumbre, esta locura se ha transformado en una muy mala costumbre. Por favor, que se vislumbre una luz que nos alumbre, una luz que como Jesús reviva y nos haga volar libres como pájaros y despertarnos de nuestra propia tumba, como también lo hizo con Lázaro. Lo bueno, lo máximo, quien nos dará el diagnóstico. Todos aquí esperando el próximo pronóstico de esta realidad que en verdad se ha desbandado y que ya nadie la controla, y que como perro terminamos mordiendo nuestra propia cola. Ahora en esta bataola uno ya no es un espejismo, es un reflejo de uno mismo. Así funcionan nuestros tiempos del escepticismo. Pido un milagro que nos pueda despertar, pido un milagro para nosotros la gente. Yo digo que no hay que esperarlo al destino, un milagro que arranque la tierra. Yo creo en lo que hago y en lo que digo, por esto sigo el intento, penetrando con mi lírica lo más hondo y profundo de tu pensamiento. Y si penetra por otro orificio, no es mi culpa, lo siento, lo miento. La vaselina no te la puse yo, te la pusiste solito hace tiempo. Quindi parliamo un po' appunto della questione di cosa è successo in Argentina nel 2001, di cosa ancora succede in molte fabbriche argentine, e appunto ricollegandoci all'esperienza di cui abbiamo parlato prima della Rima Flow. E niente, dopo la crisi, sicuramente l'Argentina ha vissuto, diciamo, una delle crisi più forti tra la fine degli anni 90 e i primi anni del 2000, un paese appunto che accetta con il governo Menem tutte le misure neoliberiste imposte dal Fondo Monetario, dalla Banca Mondiale, dall'Occidente in genere, dall'Europa e dagli Stati Uniti, e quindi ciò comporta appunto una crisi fortissima, diciamo, come quella che stiamo vivendo noi in parte, anche se molto più profonda. Quindi privatizzazioni, disinvestimenti e una fortissima deindustrializzazione. E diciamo, oltre ad un enorme movimento che riuscirà appunto a cacciare tre presidenti nell'arco di più di tanti presidenti nell'arco di pochi giorni, diciamo, e quindi ci ricordiamo tutte le immagini appunto del 20 e del 21 dicembre del 2001, appunto quando le strade di Buenos Aires e di tutte le principali città furono invase da tantissimi cortei, da tantissime persone che chiedevano appunto che se ne andassero tutti, i politici corrotti e chi fino a quel momento appunto chi si riteneva responsabile appunto di quella crisi. Uno, diciamo, delle esperienze più importanti di quel movimento è stata sicuramente quella appunto della Fabricas o Empresas Recuperadas, appunto le fabbriche recuperate. Due i movimenti argentini che racchiudono e che raggruppano appunto queste fabbriche: il Movimento Nacional de Empresas Recuperadas e il Movimento Nacional de Fabricas Recuperadas. Il motto è sempre lo stesso ed è occupare, resistere e produrre, occupare, resistere e producire. E qual è la caratteristica? Sicuramente la principale caratteristica e la principale rivendicazione è l'autogestione appunto della produzione da parte dei lavoratori che precedentemente erano stati licenziati o cacciati appunto dalla proprietà. Quindi autogestione della produzione, salari uguali per tutti i lavoratori e per tutte le lavoratrici, e diciamo ribaltare il concetto classico del libero mercato, cioè quello della, della competizione tra, tra imprese, e parlare invece di solidarietà tra chi lavora e anche tra imprese appunto autogestite allo stesso modo. Sicuramente una delle esperienze più note è quella della Zanon, della Zanon, appunto una fabbrica che si trova a Neuquén. Zanon era il proprietario della Zanon, era italiano, e appunto una fabbrica che produceva ceramiche, che produceva ceramiche ed era tra l'altro ben inserita anche nel mercato internazionale. Che succede? Negli anni 90, anzi la fabbrica nasce negli anni 70 più o meno, e come ricordano poi i lavoratori che adesso autogestiscono la produzione, nasce non tanto grazie al capitale privato di questo imprenditore italo-argentino, ma grazie agli investimenti pubblici, come sempre. Quindi il capitale è pubblico, il terreno su cui, nasce l'impresa, su cui vengono costruiti i capannoni, è statale, e viene comunque dato in gestione appunto ad un privato. Quindi capitale privato e profitti, capitale pubblico voglio dire, profitti privati, quindi come sempre. Che cosa accade? Che negli anni 90 entra in crisi, i lavoratori riescono, dopo che il sindacato, comunque una parte del sindacato era assolutamente corrotto da questo Zanon, una parte dei lavoratori riesce a riprendere la guida del movimento sindacale interno alla fabbrica, e quindi iniziano a rivendicare migliori condizioni salariali, migliori condizioni di lavoro, e Zanon, l'imprenditore, la proprietà, decide di licenziare alcuni di loro, naturalmente con una legislazione sindacale assolutamente favorevole in quel periodo agli imprenditori è assolutamente sfavorevole ai lavoratori, quindi licenzia alcuni di loro e arriva a decidere appunto di chiudere l'impresa, la produzione di ceramica, come forma in realtà di ricatto nei confronti appunto di queste lotte. Questo si inserisce proprio nel momento di crisi del 2001, e quindi i lavoratori e le lavoratrici della Zanon prendono la palla al balzo, occupano la fabbrica e iniziano appunto a mettere in pratica una forma diversa di produzione completamente autogestita. Continuano a produrre ceramiche, e la cosa più importante è che riescono addirittura ad assumere nuovi lavoratori, addirittura con la nuova gestione, quindi eliminando del tutto i profitti privati dalla fabbrica, dalla produzione, riescono ad assumere oltre 170 nuovi lavoratori. La fabbrica cambia nome, da Zanon giustamente viene chiamata dai lavoratori stessi Fa Sin Pat, che è una sigla che significa appunto fabbrica sin patrones, fabbrica senza padroni. È in qualche modo, ritornando a quello di cui parlavamo prima con Massimo, la capacità dei lavoratori della Zanon è quella di aprirsi alla comunità che circonda la stessa fabbrica, ed è proprio grazie a questo, diciamo, al supporto di questa comunità che la fabbrica è riuscita a resistere nonostante anche i tentativi di sgombero, e nonostante i tentativi soprattutto da parte di alcuni giudici federali. Per esempio, come si apre alla comunità? Uno degli esempi, diciamo, di cui si parla uno degli esempi è quello della costruzione, grazie al lavoro e alle ceramiche appunto e ai prodotti della stessa fase impatto della ex Zanon, della costruzione in uno dei quartieri più poveri di Neuquén, della costruzione di un ospedale interamente costruito grazie appunto ai lavoratori. Ospedale e clinica che i poverissimi abitanti di quel quartiere chiedevano da anni allo Stato, alle autorità pubbliche, ma che non avevano mai ottenuto. Quindi si apre all'esterno in qualche modo e riesce appunto a ottenere questo supporto. Supporto che ottengono tutte le 200 e passa fabbriche piccole, medie, occupate e autogestite in Argentina. Mandiamo una canzone sempre di un gruppo argentino, loro sono lo sfavoloso Skadichax, e poi altre due parole sulla questione delle fabbriche occupate. Parleremo appunto di come si è aperto al pubblico e come appunto è diventato spazio pubblico e non più privato una fabbrica come quella di Zanon, e poi andremo a parlare di altro. Thank you. quindi per concludere, diciamo, questo brevissimo viaggio in Argentina, leggiamo una cosa molto interessante si è trovato su internet, appunto un comunicato del MNFR, quindi del Movimento Nazionale delle Imprese Recuperate, dove appunto parla di questa apertura alla comunità esterna di tutte le fabbriche, non si focalizza soltanto sulla Zanon, ma di tutte le fabbriche. Dice qualcosa di molto interessante, infatti dice: nello spazio fisico della fabbrica c'è anche un'altra trasformazione, una trasformazione simbolica, oltre a quella sostanziale dell'autogestione, dei salari uguali per tutti e della solidarietà tra i lavoratori. Qual è questa trasformazione simbolica? Che la fabbrica viene recuperata e si apre all'esterno, quindi la comunità esterna la fa propria, e quindi il conflitto lascia di essere esclusivo dei lavoratori e delle lavoratrici e si converte, si trasforma in qualcosa che viene rivendicato dall'intero quartiere, dall'intera cittadina, dall'intera comunità. La fabbrica, continua a leggere, traducendo un po' così a stento, la fabbrica apre quindi le sue porte ad esperienze ed espressioni artistiche, a centri culturali, a centri di formazione, di educazione formale, quindi corsi di formazione per giovani e adulti, di addirittura in alcuni casi di attenzione sanitaria. Quindi questa trasformazione simbolica è importantissima, proprio perché, come conclude il comunicato, la fabbrica si converte da spazio privato a spazio pubblico. Ad esempio, diciamo, proprio la Zanon fa questo e riesce, diciamo, a porsi in qualche modo a capo, ad essere quella sicuramente più in vista tra tutte le fabbriche recuperate argentine, anche perché riesce in questa apertura, non solo, come detto prima, addirittura andando a migliorare le condizioni della comunità che la circonda, quindi è la Zanon e sono i lavoratori e le lavoratrici della Zanon che nelle loro assemblee autogestite decidono di in qualche modo di costruire questa clinica a Neuquén. Ma poi fanno anche tutta una serie di iniziative culturali e musicali per portare soprattutto i giovani all'interno della fabbrica, per appunto avvicinare i giovani a questa nuova esperienza autogestita, auto-organizzata di produzione. Quindi dentro la Zanon suoneranno tantissimi gruppi argentini e a più riprese, appunto dagli Ataque 77 alla Renga, Bersuit per Garabat, addirittura i lavoratori della Zanon verranno invitati sul palco dei Rage Against the Machine a Buenos Aires e di Manu Chao, e poi appunto il concerto nel 2010 degli Scapè proprio all'interno della fabbrica. Quindi, per concludere questa breve parentesi latinoamericana, ci sentiamo proprio gli Scapè che dall'interno della Zanon hanno dedicato questo pezzo ai lavoratori. Sabemos que hay un compañero, un compañero preso de Zanon. No sé ahora mismo su nombre. Habíamos quedado en sacar una pancarta. Pero se lo vamos a dedicar a él. Por favor, que cierren las puertas, que hace un frío de la Virgen. Y a todos los trabajadores y trabajadoras de Zanon que han organizado este pedazo de concierto. Un aplauso, Peña. ¿Y qué tema les podemos cantar a ellos? ¡La Macarena! ¡Macarena! Pero se la vais a cantar vosotros, ¿eh, Peñita? Nosotros vamos a escuchar. Orgulloso de estar entre el proletariado. Tú no, Ricardo, yo. ¡Señor! sí señor. Della Mafro che insomma attraverso la loro esperienza, attraverso le parole di Massimo oggi abbiamo potuto avere insomma un'idea di una di come sia possibile una risposta concreta alla crisi, alla disoccupazione attraverso un nuovo modello lavorativo fondato appunto sull'auto-organizzazione dei lavoratori, sull'autogestione, sulla rotazione, un modello appunto che non mette in contrapposizione la tutela ambientale con la tutela dei lavoratori e delle lavoratrici e diciamo così l'idea di una produzione che guardi ai bisogni delle persone e non basata appunto sul profitto. Uno está escondido en el callejón, quizás está bien lo que le va a pasar. Entonces saca su revólver y va a disparar. La policía le rodea sin tregua, lo buscan por ajuste de cuentas. Y ese sargento que sin vacilar abre fuego y le va. Lo curioso es que antes de morir, de León Santillán pronunció palabras a los oficiales que desconcertados miraban. Les dijo: queridos enemigos de siempre y de este mundo de dolor, nunca se olviden que el santo de la gente va hacia el mar. Yeah. prisiones, ese animal así. Ese animal es quien todo te enseña a vivir, lo que prisiones. E sfumiamo i Carnaval Toda la Vida de Los Fabulosos Cadillacs, che non so esattamente chi siano. E va bene, cambio voce per Oops Connecting Fights, la trasmissione che racconta le lotte dei lavoratrici e dei lavoratori e di chi in questo paese lotta contro le devastazioni ambientali. Insomma, siamo, ricordiamo i nostri, sono le 15 e 43 minuti primi, siete su Radio Default, vi lasciamo i nostri contatti che prima non sono stati dati, il nostro sito internet è www.radiodefault.it, andate su Facebook e ci trovate a Radio Default, o ci scrivete su Twitter radio.default, sempre per la gioia della fantasia. E anche il nostro contatto Skype per radio.default. Intervenite, parlate, chiedete. E, siamo appunto una radio libera che lascia anche la libertà di intervento alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Ecco, abbiamo visto che siamo la radio locale a vocazione universale, abbiamo parlato di Maflo e di Argentina e ora torniamo appunto sul locale. Anzi, nemmeno tanto sul locale, perché la prima notizia che vogliamo dare sul fronte delle lotte ambientali è quella del MUOS. L'abbiamo sentito 2 settimane fa, o almeno ci abbiamo provato a sentire gli attivisti che manifestavano contro la base statunitense, l'ampliamento della postazione radar di ascolto della base statunitense di Niscemi. E ora ci leggiamo un articolo di Contropiano, tratto da Contropiano, che ci aggiorna sulle mobilitazioni che in città continuano e che impediscono l'ingresso dei materiali di costruzione. Questo è un articolo di giovedì 11 aprile. Niscemi, i No MUOS bloccano di nuovo i cancelli. Gli attivisti No MUOS e gli abitanti tornano a bloccare i cancelli della base militare. L'arroganza delle forze armate USA deve fare i conti con la volontà popolare e la legge. Fin dalle prime luci dell'alba, un centinaio di cittadini presidiano la contrada Ulmo di Niscemi, in prossimità di tutti gli accessi della base NRTF della Marina statunitense, determinati a far rispettare il diritto alla salute e alla pace. Denunciano la continuazione abusiva dei lavori di completamento del MUOS. Con i loro corpi si oppongono al passaggio dei mezzi, dei materiali e degli uomini, operai e tecnici diretti al cantiere abusivo per la costruzione del MUOS, all'interno della base della Marina statunitense. Gli attivisti dei comitati di Niscemi e dei comuni vicini difendono la salute, la pace, la sovranità popolare e nazionale e la dignità del paese calpestata persino da chi la dovrebbe difendere nelle istituzioni. Ieri, nonostante fosse a conoscenza della rabbia che montava tra i vari comitati No MUOS, la polizia ha provato a far transitare una quarantina di operai e alcuni furgoni militari. Il blocco, posto da circa 80 cittadini decisi a interrompere i lavori dopo 3 ore, ha costretto operai e militari a tornare indietro. Si ripropone la deleteria contraddizione fra Stato e Regione e a pagare il conto alla fine siamo sempre noi. Siamo noi, costretti dall'inefficienza delle istituzioni, a essere il reale potere esecutivo che fa rispettare le decisioni del nostro governo. Siamo noi, platealmente minacciati dai dirigenti delle forze dell'ordine, che alla fine ci becchiamo le varie denunce, denunciano gli attivisti No MUOS. Siamo stanchi di contrapporci, abbandonati a noi stessi, a delle forze di polizia a loro volta disorientate che probabilmente condividono con noi la battaglia a difesa dei nostri comuni diritti. E quindi, appunto, prosegue questa lotta per la salute che, sebbene l'articolo parli di presunte sovranità popolari e nazionali, di cui ce ne importa veramente poco, il dato importante è questo, che tante persone stanno bloccando i cancelli per dire no a questa devastazione ambientale, che ricordiamo si tratta di un ampliamento di una rete radar già esistente che è stata approvata agli inizi degli anni 90 e che ha portato a un aumento esponenziale dei casi di tumore agli occhi e alla tiroide. Quasi una famiglia su 2 vede un componente della famiglia con queste malattie. E questo ovviamente a partire dalla prima costruzione del primo impianto. Quindi magari i legami non ci sono, o noi pensiamo di sì, che le cose siano legate. Diciamo che appunto i manifestanti, i compagni del Non Muos si evidenziano un fatto, che sono loro il potere esecutivo. Difatti è notizia di questa settimana che il presidente della regione, Crocetta, che ricordiamo la Sicilia è una regione a statuto speciale, non funziona come qua da noi, diciamo, là aveva voce in capitolo la regione su questa su questo impianto, che non è una base militare, non è sovranazionale, cioè non è sovranità statunitense, è territorio italiano, aveva vietato l'ampliamento di questa struttura. A questo si è appellato il governo, invece, che secondo il quale rientra nelle sue prerogative invece appunto dare l'ok, il via libera per l'ampliamento della discarica, dell'impianto. Quindi massima solidarietà ai Non Muos, di cui vogliamo ricordare tra l'altro una iniziativa di mobilitazione che si terrà a Roma sabato mattina, lunedì mattina. Difatti il sindaco di Niscemi con i comitati locali, quelli che vivono gli studenti Non Muos che vivono a Roma, hanno indetto una manifestazione davanti a Palazzo Chigi lunedì alle ore 9. E quindi l'invito è ovviamente per tutte e per tutti di recarsi lì dietro allo striscione del coordinamento romano contro il Muos, e di portare anche la propria solidarietà attiva e la propria partecipazione a questa vertenza, che non è unicamente una vertenza locale, perché la salute è un interesse che riguarda tutti, anche se noi viviamo nel Lazio. Qualsiasi opera devastante per la salute che venga approvata pone un piccolo precedente affinché altre opere di questo genere si ripropongano nei territori, negli altri territori. E poi ricordiamoci che il Muos non è nient'altro che un enorme sistema di intercettazione che serve appunto e per la repressione interna, ma anche e soprattutto per le nuove guerre che gli Stati Uniti e i loro alleati della NATO hanno intenzione di portare avanti nel Mediterraneo e non solo. E quindi appunto come antimilitaristi ribadiamo che che non è possibile, che rifiutiamo assolutamente qualsiasi spesa per una base, per un'installazione militare, quando allo stesso momento ci vengono tagliati salute, scuola, servizi sociali e altro. Quindi ribadiamo l'avviso per ribadiamo l'appello per la mobilitazione lunedì alle ore 9 di fronte a Palazzo Chigi, dietro lo striscione del Comitato Romano contro il Muos. E ora un brevissimo stacchetto musicale e ritorniamo con gli aggiornamenti, stavolta locali. Ti ha messo una bomba sul traliccio ed è scoppiato come Feltrinelli, l'anarchico pazzo, e a Carlo Giuliani sei stato tu con il tuo sasso. E risfumiamo Cristo è morto di freddo degli EDP e torniamo appunto al locale, esattamente nel comune viterbese, ma parliamo di un problema che riguarda un po' tutto il Lazio, che riguarda appunto l'arsenico nelle acque. leggiamo in questo caso un articolo da Paese Sera che titola "Emergenza arsenico nel Lazio, dopo l'acqua l'allarme sul pane". Gravissima la situazione dell'arsenico nelle acque potabili del Lazio e l'allarme lanciato oggi sul pane e sui prodotti alimentari dall'Istituto Superiore di Sanità con la collaborazione dell'Ordine dei Medici. Secondo i dati, i livelli d'arsenico registrati nell'organismo degli abitanti dei comuni del Viterbese sarebbero doppi rispetto alla normalità. Balduzzi, avvieremo misure in tempi strettissimi. Gravissima la situazione dell'arsenico nelle acque potabili del Lazio e l'allarme lanciato oggi sul pane e sui prodotti alimentari dall'Istituto Superiore di Sanità. Nell'organismo degli abitanti dei comuni del Viterbese i livelli di arsenico registrati sono doppi rispetto alla normalità. In queste aree, in cui il problema dell'acqua contaminata è una vera e propria emergenza, nella popolazione, dai bambini fino agli anziani, la sostanza presente nelle unghie raggiunge infatti 200 nanogrammi per grammo, contro gli 82 nanogrammi normalmente registrati in altre aree. Elevata anche la presenza di arsenico nel pane, per la cui lavorazione è indispensabile l'acqua. Un segno comunque che la catena alimentare è coinvolta nella contaminazione. Sono i primi dati in via di pubblicazione di uno studio di monitoraggio dell'Istituto Superiore di Sanità su Latina, Roma e Viterbo, che ha coinvolto gli ordini dei medici delle tre province. L'esposizione all'arsenico non riflette necessariamente un rischio, avverte Francesco Cubadda, ricercatore dell'Istituto Superiore di Sanità e coordinatore dello studio. Abbiamo solo un'indicazione, continua, che l'esposizione all'arsenico inorganico è più elevata. Ma questo ci viene fatto un saluto dal compagno Nicolas, che ricambiamo. Salve Nicolas, scusate l'interruzione, solo grandi momenti personali su Radio Default. In pratica la ricerca ci dà i dati e le conoscenze indispensabili per poi mettere in campo misure di tutela adeguate. Per intervenire è fondamentale, aggiunge l'esperto, sapere precisamente qual è la reale esposizione. Con questa informazione è possibile capire chiaramente quali siano i pericoli. Per quanto riguarda l'arsenico inorganico, infatti, con livelli di esposizione di questo tipo, superiori alla norma ma non estremi, non abbiamo certezze di effetti tossici. Uno dei passi successivi, quindi, è avviare studi epidemiologici per valutare se, a questi livelli, ci sono effetti sulla salute. Ovviamente non bisogna attendere gli studi per capire che, comunque, l'esposizione va ridotta. E quindi passiamo avanti alla catena alimentare. Ci sono già alcune evidenze che potrebbero esserci un'esposizione aumentata attraverso la catena alimentare. Abbiamo già raccolto campioni e li stiamo analizzando per valutare questo eventuale passaggio. Se questo problema fosse confermato, la questione si complicherebbe, perché il problema non sarebbe solo l'acqua, ma anche la produzione primaria, dai vegetali alle carni. Già nel pane sono stati trovati livelli elevati di arsenico, questo perché l'acqua è un ingrediente importante del prodotto, ma serve avere indicazioni complete. Abbiamo realizzato uno studio serio, con un livello di dettaglio elevato e vasto, che darà origine a più pubblicazioni. Non ce ne sono di simili in Italia e sono pochi anche a livello internazionale. Non vogliamo trascurare nessun elemento di questo quadro che si sta componendo. Questa è una garanzia per i cittadini. E poi si va avanti con il risarcimento dei danni. I rischi per la salute legati all'arsenico sono elevatissimi, al punto da portare oggi il Codacons a chiedere alle ASL territoriali di intervenire, disponendo la chiusura di quegli esercizi commerciali costretti ad utilizzare acque contaminate per la produzione di alimenti. Spiega il presidente di Codacons, Carlo Rienzi, ma le attività come panetterie, ristoranti, bar, pasticcerie, eccetera, operanti nel Lazio non hanno alcuna colpa per la grave situazione determinatasi. Per tale motivo abbiamo deciso di intervenire in loro soccorso, avviando un'azione risarcitoria contro i ministeri competenti e la Regione Lazio, volta a far ottenere ai gestori di esercizi commerciali adibiti alla produzione di beni alimentari che prevedono l'utilizzo dell'acqua il risarcimento dei danni subiti, fino a un massimo di 1 milione di euro ad attività. E poi andiamo avanti con l'incontro con Regione e Ministero. In merito alla questione della presenza di arsenico nelle acque della provincia di Viterbo e del territorio della Tuscia, il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha sentito questa mattina il ministro della Salute Balduzzi. Nel corso della telefonata è stato concordato un incontro che si svolgerà la prossima settimana tra rappresentanti della Regione Lazio, del Ministero e di tutti gli enti e istituzioni interessati dal problema per affrontare al più presto i temi ad esso collegati ed individuare le soluzioni possibili. e quanto si legge in una nota della Regione Lazio. E concludiamo con Balduzzi, il ministro della salute, della sanità, o meglio dei tagli alla salute, che dice: avvieremo misure in tempi strettissimi. Con il presidente Nicola Zingaretti e con tutti gli enti locali interessati avvieremo in tempi strettissimi le misure urgenti per far fronte ai disagi della popolazione in seguito all'emergenza da tempo creatasi a causa delle alte concentrazioni d'arsenico. Non possiamo più aspettare e finalmente dalla regione c'è una risposta precisa alle numerose sollecitazioni che ho già rivolto in passato alla Regione Lazio. Il presidente Zingaretti ha risposto immediatamente questa mattina annunciando l'incontro di lavoro. E prosegue, ma con il Ministero della Salute, che ricorda che i provvedimenti in deroga chiesti e ottenuti dalla Regione Lazio dalla Commissione Europea prevedevano come parte integrante della richiesta un rigoroso cronoprogramma, questa parola che ci persegue da ormai anche nelle cronache locali, per il rientro delle acque dei parametri di conformità. L'8 febbraio a Bruxelles, presso la Commissione Europea, si era svolta una riunione presenti il Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità e Regione Lazio, nella quale la Commissione, nel prendere atto delle azioni programmate dalla Regione per rientro del valore di parametro dell'arsenico, ha proposto un piano di assistenza al quale la Regione aveva aderito, ma oggi non risulta che tale piano sia stato formalizzato, nonostante i vari solleciti a fornire informazioni in merito. E quindi, se volete leggervi tutto l'articolo, lo trovate su Paese Sera, con anche altri articoli che appunto trattano della questione arsenico. Noi vorremmo ricordare una cosa: il problema dell'arsenico non è una prerogativa della Tuscia o del Viterbese, ma è un problema che si è scatenato anche qua, o meglio, che è stato scatenato dalla stampa. Poi l'arsenico c'è sempre stato. Il fatto qual è? Diciamo che colpa dell'arsenico, la grossa colpa dell'arsenico è una, fondamentalmente, che almeno per quanto riguarda il territorio dei Castelli Romani, che ricordiamo è un territorio di roccia vulcanica che vede l'arsenico presente nelle rocce naturalmente. L'arsenico però non è solubile, non dovrebbe entrare nell'acqua. Diventa solubile quando viene esposto all'ossigeno. L'esposizione all'ossigeno avviene quando si utilizzano molto le falde acquifere. E questo cosa significa? Significa fondamentalmente c'è un motivo scatenante, che è quello della folle urbanizzazione, della folle cementificazione che nei castelli ha preso piede negli ultimi 20-25 anni. Tra l'altro, ultimo atto di questa cementificazione, il Divino Amore a Marino, che vedrà una colata di cemento facendo quasi raddoppiare per una serie di appartamenti che, se fossero tutti abitati, vedrebbero raddoppiare la popolazione marinese. E quindi diciamo uno dei primi interventi che andrebbe preso contro l'avvelenamento delle acque è quello appunto di fermare immediatamente l'edificazione del suolo, anche se ciò non piacerà né al signor Zingaretti né alle varie giunte che fondamentalmente si reggono grazie alla collaborazione con i vari palazzinari romani. Poi c'è un altro discorso da fare, che è quello del rientro nei parametri. Abbiamo visto che se ne occuperanno regione, provincia e governo, ma noi vogliamo ricordare che c'è stato un provvedimento del governo Berlusconi che ha posto l'acqua in mani private e che è in barba ad ogni referendum. Ancora non è stata avviata la ripubblicizzazione delle acque, e ricordiamo che noi paghiamo, sebbene abbiamo anche qua vinto un referendum, paghiamo un sovrapprezzo per la remunerazione del capitale investito a tutte queste ditte private o semipubbliche come Acea Acqua e Castelli, che giustificano appunto questo giustificano questo, questa maggiorazione della bolletta con il fatto che loro hanno bisogno di liquidità per gli investimenti. Ecco, questo potrebbe essere un buon modo per utilizzare i nostri soldi, cioè questi lavori di rientro, questi lavori infrastrutturali per il rientro dei parametri d'arsenico non dovrebbe essere a carico della collettività, ma di quelle ditte che fanno profitti d'oro sull'acqua e però quando arriva il momento di investire non vogliono mai scucire una lira. E tutto il mondo è paese, verrebbe da dire. E quindi lasciamo invece la Tuscia per ritornare invece proprio in territorio prettamente castellano, che ricordiamoci con l'arsenico, con i dati di tali di arsenico nell'acqua, vedrebbe anche la propria filiera del pane totalmente devastata. Pensiamo al pane di Genzano, questo tanto declamato pane di Genzano, il pane di Lariano e via dicendo. Senza contare che stiamo in un territorio a vocazione agricola, se è rimasta ancora un po' di campagna, se ancora non l'hanno costruita, e anche questo va poi a influire sull'economia del territorio, perché la roba, gli animali che allevi e la frutta che coltivi sono avvelenati, hai detto che la gente se le compra. E quindi ritorniamo quindi ad Albano, perché domani, domenica 14 aprile 2013, casca un anniversario abbastanza importante. Noi leggiamo pezzi di un comunicato di OPS, che ricorda la manifestazione che l'anno scorso si tenne per le strade di Albano. Una manifestazione che è stata aggredita dalla sbirraglia che faceva da servizio d'ordine al corteo, e manifestazione che aveva visto scendere 2000 persone in piazza contro l'inceneritore, che appunto si è trovata aggredita e i suoi partecipanti braccati dopo la manifestazione, braccati nei vicoli, e che hanno visto l'arresto di un compagno minorenne che noi tutti salutiamo. Compagno minorenne, e il blocco e l'identificazione sull'Appia per più di 3 ore dei solidali che si erano recati al commissariato a protestare contro l'ingiusto arresto di questo giovane compagno. E quindi diamo la voce ad OPS. Un anno fa per le strade di Albano le popolazioni dei castelli romani scendevano in piazza per ribadire il loro ennesimo no all'inceneritore di Roncigliano. Un'opera inutile che non risolverà il problema dei rifiuti. Un'opera dannosa che andrà ad avvelenare l'aria di un territorio già devastato da una discarica vecchia di 40 anni e dalla cementificazione ipertrofica che ha devastato i boschi ed impotridito le acque. Uno sperpero di denaro che vedrà destinare 400 milioni di euro agli interessi degli speculatori privati, mentre echeggiano i mantra dell'ideologia liberista, sostenuta dall'intero arco costituzionale, che vogliono imporre l'eliminazione dei servizi essenziali e dello Stato sociale con la scusa che non ci sono soldi. Una grande manifestazione che, tornata a Piazza Mazzini, ha subito un'aggressione ingiustificata dalle forze dell'ordine, che hanno lanciato anche una caccia all'uomo all'interno di Villa Doria, ferendo una passante. L'ennesima dimostrazione muscolare contro un movimento popolare che non accetta di subire passivamente le decisioni di chi vuole fare profitto su ambiente e salute. L'operato delle forze dell'ordine però non era terminato. Mentre i manifestanti tornavano alle loro case, sono iniziati i rastrellamenti per la città. Un gruppo di attivisti, pedinato dalla Digos, è stato fermato in via Aurelio Saffi per l'identificazione. Dopo aver spontaneamente dato i documenti, gli agenti hanno palesato la volontà di trattenere un giovane compagno minorenne, accusandolo di aver ferito un poliziotto. Subito i suoi amici e i cittadini di Albano hanno cominciato a protestare contro questa misura vessatoria, trovandosi di fronte al muro di gomma opposto dalle forze dell'ordine, che hanno fatto chiudere le strade da 4 camionette, 2 volanti e richiesto l'intervento del reparto celere, riuscendo infine a portare via il giovane compagno. Immediatamente una trentina di compagni, tutti militanti del coordinamento contro l'inceneritore di Albano, e ci teniamo a ripeterlo, tutte e tutti i militanti del coordinamento contro l'inceneritore di Albano, hanno dato il via ad un presidio pacifico sul marciapiede, vicino al locale commissariato, ritrovandosi per tutta risposta nuovamente accerchiati dal reparto celere, che ha sigillato per più di 2 ore la via Appia, identificando e riprendendo i presenti e portando in commissariato chi era senza documenti. Solo in tarda serata c'è stato il rilascio dei solidali, mentre il minorenne arrestato è stato trasferito in una casa famiglia perché non era riscontrabile la flagranza di reato, e perché la polizia non era stata in grado di fornire al giudice la prova schiacciante, un video, che incolperebbe il ragazzino. Una città militarizzata, una gestione di piazza spesso schizofrenica, con funzionari impreparati o con ordini contraddittori, un utilizzo sproporzionato del numero di agenti e della forza per gestire normalissime dinamiche di piazza. Si può dire che ad Albano è stato svelato il vero volto di un governo tecnico che, di fronte al dissenso sociale, ha come unica linea di condotta quella della violenza e della repressione poliziesca. Un anno dopo la situazione è di altri 18 compagni denunciati per aver difeso la propria terra dalla furia speculativa protetta dalla sbirraglia. Arresti, denuncia e repressione non ci fanno paura, ma ci rendono consapevoli della nostra forza, della nostra complicità, della nostra lotta. Questa è la nostra terra, questa è la nostra resistenza, questa è la nostra rabbia. Occupazioni, precari, studenti. E quindi dopo un anno la situazione è cambiata poco. Il governo tecnico è rimasto lo stesso, con ancora minore legittimità rispetto a quella che aveva l'anno scorso. Mentre le manifestazioni di piazza in giro per l'Italia, basti vedere ad esempio l'ultimo sciopero del comparto della logistica, vedono la gestione del dissenso sociale unicamente su base repressiva e sul piano militare. In tutto questo noi vogliamo anche ricordare che un anno fa fu fondamentale anche il ruolo dei media, che hanno subito riportato delle dichiarazioni di gente mai vista, o di singoli che si dissociavano a nome di non si sa bene chi, creando una divisione tra buoni e cattivi che all'interno di quella mobilitazione non c'è mai stata. A via Olivella c'eravamo tutte e c'eravamo tutti, c'erano signore, c'erano giovani, c'erano compagni solidali anche da fuori Roma, tutti che chiedevano il rispetto della propria terra, della propria e della propria salute. E quindi erano da rispedire e sono state rispedite subito al mittente, anche con un comunicato dello stesso coordinamento che smentiva altre persone, presunti membri storici, che dicevano che ciò che era successo era una cosa inaccettabile e che c'era stato un attacco alla polizia, un attacco mai stato. Poi questi tizi, questi giornali e questi personaggi in cerca d'autore sono stati smentiti poi dai video pubblicati anche pubblicamente in rete, in cui si vede che chiaramente una manifestazione super pacifica è stata aggredita anche con delle persone che stavano dando le spalle alle forze dell'ordine, e che allucinante non è stata andare a Via Olivella o ribadire per l'ennesima volta il proprio no contro le devastazioni ambientali, ma allucinante è non reagire, allucinante è gestire su base repressiva il dissenso ad un'opera che vede favorevoli soltanto speculatori e altra gente di tale risma. Quindi con questo comunicato, che a breve troverete sul blog di Ops, noi ci salutiamo. Questa è Ops Connecting Fights su Radio Default, la trasmissione che parla delle mobilitazioni contro le devastazioni ambientali e le mobilitazioni delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio italiano e non solo. Vogliamo ricordarvi i nostri contatti, il nostro blog http occupazioniprecaristudenti.noblogs.org. Mi fanno cenno che parlo troppo, ma almeno ho un po' di verve a differenza vostra, che sembrate morti. Solo grandi messaggi personali su Radio Default, quindi occupazioniprecaristudenti.noblogs.org. Noi siamo Radio Default, www.radiodefault.it, e ora vi lasciamo un po' di musica e a breve anche Radio Kebab. Buona serata a tutte e a tutti, buon sabato a tutte e a tutti, buona lotta a tutte e a tutti. Une putain de journée, une putain de bataille qui commence. Et merde, je me suis encore endormi dehors. Je me rappelle pas de la veille. Nicolas, sei morto e non te ne sei accorto. Faut ma dose, j'ai rien sur moi. Faut que je rentre à l'hôtel, prendre le matos. J'ai décrimpé, du mal à marcher. Les gens me regardent bizarre et osent même pas me toucher. Mais je les emmerde, moi. Je les déteste autant qu'ils me haient. Ouais, je les emmerde, moi. Comme ce putain de monde, cette putain de vie dont j'ai perdu le goût. Où y'a que ma cam au fond qui vaut le coup. Comme tu as ce qu'il veut, sans s'en jouer rien à personne hein. Et c'est ce que j'ai trouvé de mieux, j'avoue. Enfin, je croyais un peu l'avenir. J'étais peut-être trop rêveuse, car ma vie m'a fait devenir cette jeune que les gens craignent. Mon mal-être entraîne vers le fond. Chaque jour, c'est la même rengaine. Ouais, j'ai renoncé à me battre. Ma vie, c'est obscure, entre rue HP et post-cure. Subutex, rupnol, codéine, transcène, scénar. Mais son âme, c'est mon héroïne hein. J'ai l'impression de toucher la mort, mais elle veut pas me laisser rentrer, elle me laisse toujours dehors. J'aimerais m'envoler et quitter mon fardeau. Je touche la mort, mais elle refuse d'ouvrir son rideau. J'aimerais m'envoler.